Pronto, Ivan? Ciao, ciao Matteo. Ciao, senti, tu hai fatto. Forse sei il record del mondo nella puntata di oggi. No, non è Nella vero. puntata di oggi, Ivan, sì. Racconta che cosa hai fatto per chiedere scusa alla tua Allora, fidanzata. una piccola premessa: io faccio il DJ in discoteca come lavoro. Quali discoteche? Adesso posso dire il Ma nome? certo. Allo Zalatino, Senti, Cinisello. ma perché Però non ascolti? faccio latino, faccio discoteca e due sale. Ma perché ascolti Radio 24? Perché mi piace e potrei essere bravissimo. Va bene, ti ringrazio Ivan. Senti, raccontami che cosa hai fatto Allora, per. in quel periodo ero fidanzato da parecchi anni con questa ragazza che, vabbè, era gelosissima e io, nel senso, io facevo il bravo, però nel senso è capitato che una volta, diciamo, gli ho mancato di rispetto, cerco di farla breve, e in pratica abbiamo fatto una litigata furiosa, io per farmi perdonare mi sono fatto l'iniziale del suo nome sul petto, Sì, proprio sopra il cuore, per vinci fargli capire che sul assolutamente, cuore era quello anche suo. rispetto in tamarraggine, anche rispetto a quello che mandavi Subsonica. Senti, beh, però mi pare che ne stessi parlando al passato, quindi è finita sta storia. Quindi Però c'hai il tatuaggio? comunque nel senso ci sentiamo ancora e ne approfitto per dirgli che gli voglio ancora tanto bene. Benissimo, anch'io. Cioè, non a lei, però a chi sta ascoltando. Fammi capire, però, tu hai comunque l'iniziale di questa sul petto? Sì, però anche lui c'è un tatuaggio su me, che si è fatto un tatuaggio che riguarda me, ecco. Ok, quindi siete pari. Siete pari più o meno, Ivan. Sì, però lei l'ha fatto prima, io l'ho fatto per rimediare, ecco. Va bene, Ivan, senti, ti ringrazio molto. Fammi sapere se te ne fai un altro. Buona giornata. Va bene, Ciao, grazie. grazie.